La casa degli spiriti di Isabel Allende, traduzione di Angelo Morino e Sonia Piloto di Castri, Universale Economica Feltrinelli, editore. 1. Rosa la Bella. Barrabás arrivò in famiglia per via mare. Annotò la piccola Clara con la sua delicata calligrafia. Già allora aveva l'abitudine di scrivere le cose importanti e più tardi, quando rimase muta, scriveva anche le banalità senza sospettare che 50 anni dopo i suoi quaderni mi sarebbero serviti per riscattare la memoria del passato e per sopravvivere al mio stesso terrore. Il giorno in cui arrivò Barrabás era Giovedì Santo. Stava in una gabbia lercia, coperto dei suoi stessi escrementi e della sua stessa urina, con uno sguardo smarrito di prigioniero, miserabile e indifeso, ma già si intuiva dal portamento regale della sua testa e dalla dimensione del suo scheletro il gigante leggendario che sarebbe diventato. Era quello un giorno noioso e autunnale che in nulla faceva presagire gli eventi che la bimba scrisse perché fossero ricordati e che accaddero durante la messa delle 12 nella parrocchia di San Sebastian, alla quale assistette con tutta la famiglia. In segno di lutto, i santi erano coperti di drappi viola, che le donne di chiesa toglievano ogni anno dalla polvere dell'armadio della sacrestia. E sotto i lenzuoli funebri, la corte celeste sembrava un cumulo di mobili in attesa del trasloco, senza che le candele, l'incenso o i gemiti dell'organo potessero opporsi a questo pietoso effetto. Minacciose masse scure si ergevano al posto dei santi, a grandezza naturale, con le loro facce tutte identiche dall'espressione raffreddata, le loro elaborate parrucche di capelli di morto, i loro rubini, le loro perle, i loro smeraldi di vetro colorato e i loro abiti da nobili fiorentini. L'unico favorito dal lutto era il patrono della chiesa, San Sebastiano, perché nella settimana santa veniva risparmiato ai fedeli lo spettacolo del suo corpo contorto in una posizione indecente, trafitto da mezza dozzina di frecce, grondante sangue e lacrime, come un omosessuale sofferente, le cui piaghe, miracolosamente fresche, grazie al pennello di padre Restrepo, facevano tremare di ribrezzo Clara. Era quella una lunga settimana di penitenza e di digiuno. Non si giocava a carte, non si suonava musica che incitasse alla lussuria o all'oblio e si osservava, nei limiti del possibile, la maggior tristezza e castità, nonostante proprio in quei giorni il pungolo del demonio tentasse con più insistenza la debole carne cattolica. Il digiuno consisteva in morbide torte di pasta sfoglia, insaporiti fritti di verdure, in soffici frittate e in grandi formaggi portati dalla campagna, con i quali le famiglie ricordavano la passione del Signore, guardandosi bene dall'assaggiare neppure il più piccolo boccone di carne o di pesce sotto pena di scomunica, come ripeteva padre Restrepo. Nessuno avrebbe osato disubbidirgli. Il sacerdote era provvisto di un lungo dito accusatore per indicare in pubblico i peccatori e una lingua allenata a turbare i sentimenti. «Tu, ladro che hai rubato il denaro del culto!» gridava dal pulpito segnalando un gentiluomo che fingeva di affannarsi a causa di un pelo sul suo bavero per non guardarlo in faccia. «Tu, svergognata che ti prostituisci sui moli!» E accusava donna Ester Trueba, invalida per via dell'artrite e devota alla Vergine del Carmine, che apriva gli occhi esterrefatta, senza sapere il significato di quella parola né dove si trovavano i moli. Pentitevi, peccatori, immonda carogna, indegni del sacrificio di nostro Signore, digiunate, fate penitenza. Travolto dall'entusiasmo, dello zelo, della sua vocazione, il sacerdote doveva contenersi per non entrare in aperta disobbedienza con le istruzioni dei suoi superiori ecclesiastici, scossi da ventate di modernismo, che si opponevano al cilicio e alla flagellazione. Lui era dell'idea di vincere le debolezze dell'anima con una buona frustata della carne. Era famoso per la sua oratoria sfrenata. I suoi fedeli lo seguivano di parrocchia in parrocchia, sudavano sentendolo descrivere i tormenti dei peccatori nell'inferno, le carni lacerate da ingegnose macchine di tortura, i fuochi eterni, gli uncini che trafiggevano i membri virili, i rettili ripugnanti che si introducevano negli orifizi femminili e altri molteplici supplizi che infilava in ogni sermone per seminare il terrore di Dio. Lo stesso Satana era descritto fin nelle sue intime anomalie, con l'accento galiziano del sacerdote, la cui missione in questo mondo era di scuotere le coscienze degli indolenti creoli. Severo Del Vaje era ateo e massone, ma aveva ambizioni politiche e non poteva permettersi il lusso di mancare alla messa che ogni domenica o festa comandata attraeva più gente affinché tutti potessero vederlo. Sua moglie, Nivea, preferiva intendersi con Dio senza intermediari, aveva una profonda sfiducia nelle sottane e si annoiava alle descrizioni del cielo, del purgatorio e dell'inferno, ma seguiva suo marito nelle sue ambizioni parlamentari con la speranza che se avesse occupato un posto al congresso, lei avrebbe potuto ottenere il voto femminile per il quale lottava da ormai 10 anni, senza che le sue numerose gravidanze riuscissero a scoraggiarla. Quel giovedì santo, padre Restrepo aveva spinto gli ascoltatori al limite della resistenza con le sue visioni apocalittiche e Nivea cominciò a sentire giramenti di testa. Si chiese se non fosse di nuovo incinta. Nonostante i lavacri con aceto e le spugnature con ghiaccio, aveva dato alla luce 15 figli, dei quali restavano vivi solo 11, e aveva motivo di supporre che già stesse entrando nella maturità, dato che sua figlia Clara, la minore, aveva 10 anni. Sembrava che fosse infine venuto meno l'impegno della sua stupefacente fertilità. Cercò di attribuire il suo malessere al momento del sermone di padre Restrepo, quando l'aveva additata parlando dei farisei che pretendevano di legalizzare i bastardi e il matrimonio civile, minando la famiglia, la patria, la proprietà e la chiesa, dando alle donne la stessa posizione degli uomini in aperta sfida alla legge di Dio che in merito era molto precisa. Nivea e Severo occupavano con i loro figli tutta la terza fila dei banchi. Clara era seduta accanto alla madre e questa le stringeva la mano con impazienza quando il discorso del sacerdote si dilungava troppo sui peccati della carne, perché sapeva che ciò induceva la piccola a visualizzare aberrazioni che andavano oltre la realtà, come era evidente dalle domande che faceva e alle quali nessuno sapeva rispondere. Clara era molto precoce e aveva la dilagante immaginazione che ereditarono tutte le donne della sua famiglia dal lato materno. La temperatura della chiesa era aumentata e l'odore penetrante dei ceri, dell'incenso e della folla stipata contribuivano a estenuare Nivea. Desiderava che la cerimonia terminasse una volta per tutte per tornare nella sua casa fresca, per sedersi nel cortile delle felci e assaporare la caraffa di orzata che la nana preparava nei giorni di festa. Guardò i suoi figli. I più piccoli erano stanchi, irrigiditi negli abiti della domenica e i più grandi cominciavano a distrarsi. Posò lo sguardo su Rosa, la maggiore delle sue figliole vive, e come sempre si stupì. La sua strana bellezza aveva una qualità perturbante alla quale neppure lei riusciva a sottrarsi. Sembrava fatta di un materiale diverso da quello della razza umana. Nivea sapeva che non era di questo mondo ancora prima che nascesse, perché l'aveva vista in sogno. Perciò non si era sorpresa del fatto che la levatrice avesse cacciato un grido nel vederla. Appena nata, Rosa era bianca, liscia, senza grinze, come una bambola di porcellana, con i capelli verdi e gli occhi gialli, la creatura più bella che fosse nata sulla terra dai tempi del peccato originale, come aveva detto la levatrice facendosi il segno della croce, fin dal primo bagno. La nana le aveva lavato i capelli con infusi di camomilla che ebbero il pregio di mitigare il colore, conferendogli una sfumatura di bronzo vecchio, e la sponeva nuda al sole per rinforzarle la pelle che era traslucida nelle zone più delicate del ventre e delle ascelle, dove si scorgevano le vene e il tessuto segreto dei muscoli. Quei trucchi da zingara tuttavia non furono sufficienti e presto corse voce che era nato un angelo. Nivea sperò che le ingrate tappe della crescita avrebbero conferito a sua figlia qualche imperfezione, ma nulla di ciò accadde. Al contrario, a 18 anni Rosa Non era ingrassata e non le erano spuntati foruncoli, ma piuttosto si era accentuata la sua grazia marina. Il tono della sua pelle, dai morbidi riflessi azzurrognoli, e quello dei suoi capelli, la lentezza dei suoi gesti e il suo carattere silenzioso evocavano un'abitatrice dell'acqua. Aveva qualcosa del pesce e se avesse avuto una coda squamosa sarebbe stata sicuramente una sirena, ma le sue gambe la collocavano in un limite impreciso tra la creatura umana e l'essere mitologico. Nonostante tutto, la ragazza aveva condotto una vita quasi normale, aveva un fidanzato e un bel giorno si sarebbe sposata, sicché la responsabilità della sua bellezza sarebbe passata ad altre mani. Rosa chinò la testa e un raggio filtrò attraverso la vetrata gotica della chiesa, disegnando un alone di luce intorno al suo profilo. Alcune persone si girarono per guardarla e si misero a parlottare, come di norma accadeva quando passava, ma Rosa non sembrava rendersi conto di nulla. Era immune da vanità e quel giorno era più assente del solito, intenta a immaginare nuove bestie da ricamare sulla sua tovaglia, metà uccelli e metà mammiferi, coperte di piume iridescenti e munite di corna e artigli così grasse e con ali così corte da sfidare le leggi della biologia e dell'aerodinamica. Di rado pensava al suo fidanzato, Esteban Trueba, non per mancanza d'amore, ma per il suo temperamento distratto e perché 2 anni di separazione sono una lunga assenza. Lui stava lavorando nelle miniere del nord, le scriveva metodicamente e talvolta Rosa gli rispondeva inviando versi copiati e disegni di fiori su carta pergamena con inchiostro di china. Attraverso questa corrispondenza, che Nivia violava regolarmente, venne a conoscenza degli alti e bassi del lavoro di minatore, sempre minacciato da frane, all'inseguimento di filoni sfuggenti, in cerca di prestiti in nome della buona fortuna e nella speranza di trovare una meravigliosa vena d'oro che gli permettesse di fare una rapida fortuna per condurre Rosa all'altare e trasformarsi così nell'uomo più felice dell'universo, come diceva sempre al termine delle sue lettere. Rosa tuttavia non aveva fretta di sposarsi e aveva quasi dimenticato l'unico bacio che si erano scambiati alla partenza e non riusciva neppure a ricordare il colore degli occhi di quel fidanzato tenace. Sotto l'influenza dei romanzi romantici che costituivano la sua unica lettura, le piaceva immaginarlo con stivali di cuoio, la pelle bruciata dai venti del deserto, mentre scavava la terra in cerca di tesori dei pirati, dobloni spagnoli e gioielli degli Inca, ed era inutile che Nivea cercasse di convincerla che le ricchezze delle miniere se ne stavano infilate tra le pietre. Perché a Rosa sembrava impossibile che Esteban Trueba raccogliesse tonnellate di rocce nella speranza che, mentre poi le sottometteva a innocui procedimenti, sputassero un grammo d'oro. Intanto lo aspettava senza annoiarsi, imperturbabile, nel gigantesco compito che si era imposta: ricamare la tovaglia più grande del mondo. Aveva cominciato con cani, gatti e farfalle, ma immediatamente la fantasia si era impossessata del suo ricamo e a poco era apparso un paradiso di bestie impossibili che nascevano dal suo ago davanti agli occhi preoccupati del padre. Severo pensava che fosse tempo che sua figlia si scrollasse il torpore e mettesse i piedi nella realtà, che imparasse qualche faccenda domestica e si preparasse al matrimonio, ma Nivea non condivideva questa inquietudine. Preferiva non tormentare la figlia con esigenze terrene, perché aveva il presentimento che Rosa fosse un essere celestiale, che non era fatto per durare a lungo nell'andirivieni banale di questo mondo, sicché la lasciava in pace con i suoi fili da ricamo e non criticava quel giardino zoologico da incubo. Una stecca del busto di Nivea si ruppe e la punta le si conficcò tra le costole. Sentì che soffocava dentro il vestito di velluto azzurro, dal collo di pizzo troppo alto, dalle maniche molto strette, la vita così attillata che quando si slacciava il corsetto passava mezz'ora in contorcimenti di pancia finché le budella non si assestavano nella loro posizione normale. Ne avevano discusso minuziosamente lei e le sue amiche suffragiste ed erano arrivate alla conclusione che finché le donne non si fossero accorciate le gonne e i capelli e non si fossero tolte le sottogonne inamidate, era lo stesso se potevano studiare medicina o avere diritto al voto, perché in nessun modo avrebbero avuto la forza di farlo. Ma lei stessa non aveva il coraggio di essere tra le prime ad abbandonare quella moda. Si accorse che la voce galiziana aveva smesso di martellarle il cervello. Si trovava in una di quelle lunghe pause del sermone cui il prete, consapevole dell'effetto di un silenzio imbarazzante, ricorreva con frequenza. I suoi occhi ardenti approfittavano di quei momenti per osservare i parrocchiani a uno. Nive lasciò la mano di sua figlia Clara e cercò un fazzoletto nella sua manica per asciugarsi una goccia che le scivolava lungo il collo. Il silenzio si fece denso, il tempo sembrò fermarsi nella chiesa, ma nessuno osò tossire o cambiare posizione per non attirare lo sguardo di padre Restrepo. Le sue ultime frasi vibravano ancora tra le colonne. E in quel momento, come avrebbe ricordato anni dopo Nivea, in mezzo alla trepidazione e al silenzio, si udì ben nitida la voce della piccola Clara. Psst! Padre Restrepo! Se il racconto dell'inferno fosse tutta una bugia, saremmo proprio fregati. Il dito indice del gesuita, che era rimasto a mezz'aria per indicare nuovi supplizi, rimase sospeso come un parafulmine sopra la sua testa. La gente smise di respirare e quelli che stavano con la testa ciondoloni si ripresero. I coniugi del Vaie furono i primi a reagire, sentendo che li invadeva il panico e vedendo che i loro figli cominciavano ad agitarsi nervosi. Severo comprese che doveva fare qualcosa prima che esplodesse la risata collettiva o si scatenasse qualche cataclisma celeste. Prese sua moglie per un braccio e Clara per il collo e uscì trascinandole a grandi falcate, seguito dagli altri figli che si precipitarono in gruppo verso la porta. Riuscirono a uscire prima che il sacerdote avesse potuto invocare un fulmine che li trasformasse in statue di sale, ma dalla soglia udirono la sua terribile voce di arcangelo offeso: «Indemoniata! Superba indemoniata!» Queste parole di padre Restrepo rimasero nella memoria della famiglia con la gravità di una profezia, e negli anni successivi ebbero modo di ricordarle spesso. L'unica che non ci ripensò più fu proprio Clara, che si limitò a segnarle nel suo diario e poi se le dimenticò. I suoi genitori invece non poterono ignorarle, sebbene fossero d'accordo sul fatto che la possessione demoniaca e la superbia erano due peccati troppo grandi per una bambina così piccola. Temevano la maledizione della gente e il fanatismo di padre Restrepo. Fino a quel giorno non avevano dato un nome alle eccentricità della loro figlia minore, né le avevano messe in rapporto con influenze sataniche, le prendevano come una caratteristica della bambina, come lo era l'andatura zoppa di Luis o la bellezza di Rosa. I poteri mentali di Clara non davano fastidio a nessuno e non causavano grandi disordini. Si manifestavano quasi sempre in fatti di poca importanza e nella stretta intimità della casa. Certe volte, all'ora dei pasti, quando erano tutti riuniti nella grande sala da pranzo della casa, seduti secondo uno stretto ordine di dignità e di gerarchia, la saliera cominciava a vibrare e subito si spostava sulla tavola tra bicchieri e piatti, senza l'intervento di alcuna fonte di energia conosciuta, né di alcun trucco da illusionista. Nivea dava una tirata alle trecce di Clara e con quel sistema otteneva che sua figlia abbandonasse la sua distrazione lunatica e restituisse la normalità alla saliera, che di colpo recuperava la sua immobilità. I fratelli si erano organizzati in modo che, nel caso ci fossero state visite, quello che si trovava più vicino fermava con una manata ciò che si stava muovendo sulla tavola prima che gli estranei se ne rendessero conto o avessero un sobbalzo. La famiglia continuava a mangiare senza far commenti, si erano abituati anche ai presagi della sorella minore. Annunciava le scosse di terremoto con qualche anticipo, il che si rivelava molto pratico in quel paese di catastrofi perché dava il tempo di mettere in salvo i servizi di porcellana e di tenere a portata di mano le pantofole per uscire di corsa nella notte. A 6 anni Clara aveva predetto che il cavallo avrebbe gettato a terra Luis, ma lui non le aveva badato e da allora aveva un fianco sbilenco. Col tempo gli si era accorciata la gamba sinistra e doveva usare una scarpa speciale con un grande plantare che lui stesso si costruiva. In quell'occasione Nivea si era preoccupata, ma la nana le aveva restituito la tranquillità dicendo che ci sono molti bambini che volano come le mosche, che hanno sogni divinatori e che parlano con le anime dei morti, ma che a tutte queste cose passano quando perdono l'innocenza. Nessuno diventa grande così, aveva spiegato. Aspetti che alla piccola vengano le mestruazioni e vedrà che la mania di far muovere i mobili e di annunciare disgrazie le passerà. Clara era la preferita della nana. L'aveva aiutata a nascere ed era l'unica che capiva realmente la natura stravagante della bambina. Quando Clara era uscita dal ventre di sua madre, la nana l'aveva presa in braccio, l'aveva lavata e da quell'istante aveva amato disperatamente quella creatura fragile, con i polmoni pieni di muco, sempre sul punto di perdere il fiato e di diventare viola, che aveva dovuto far rivivere molte volte con il calore dei suoi grandi seni quando le mancava l'aria, perché lei sapeva che quello era l'unico rimedio per l'asma. Di effetto molto più sicuro che non gli sciroppi a base alcolica del dottor Cuevas. Quel giovedì santo, Severo passeggiava in salotto preoccupato per lo scandalo che sua figlia aveva scatenato a messa. Pensava che solo un fanatico come padre Restrepo poteva credere agli indemoniati in pieno secolo XX, il secolo dei lumi, della scienza e della tecnica, nel quale il demonio era rimasto definitivamente screditato. Nivea lo interruppe per dire che non era questo il punto. La cosa grave era il fatto che se le prodezze di sua figlia fossero trapelate oltre le pareti di casa e il prete avesse cominciato a indagare, tutti ne sarebbero venuti a conoscenza. Verrà gente per guardarla come se fosse un fenomeno, disse Nivea. E il Partito Liberale andrà a remengo, aggiunse Severo, il quale vedeva il danno che poteva comportare per la sua carriera politica una fatturatrice in famiglia. Stavano parlando di questo quando arrivò la nana, trascinando le sue ciabatte col suo frufru di sottovesti inamidate, per dire che nel portico c'erano alcuni uomini che scaricavano un morto. Proprio così erano entrati su un carro a quattro cavalli che occupava tutto il primo cortile, schiacciando le camelie, sporcando di sterco il rilucente acciottolato in un turbinio di polvere. In uno scalpitio di cavalli e un maledire di uomini superstiziosi che facevano gesti contro il malocchio. Portavano il cadavere dello zio Marcos con tutto il suo bagaglio. Dirigeva quel tumulto un ometto mellifluo vestito di nero con finanziera e un cappello troppo grande che iniziò un discorso solenne per spiegare le circostanze del caso. Ma venne interrotto brutalmente da Nivea, che si lanciò sopra l'impolverata cassa che conteneva i resti del più amato fra i suoi fratelli. Nivea gridava che aprissero il coperchio per poterlo vedere con i suoi occhi. Le era già toccato di seppellirlo in una precedente occasione e per questo aveva il dubbio che neppure quella fosse la volta definitiva della sua morte. Le sue grida richiamarono la folla della servitù di casa e tutti i figli che accorsero all'udire il nome del loro zio risuonare fra lamenti di dolore. Erano un paio d'anni che Clara non vedeva suo zio Marcos, ma lo ricordava molto bene. Era l'unica immagine perfettamente nitida della sua infanzia e per evocarla non aveva bisogno di consultare il daguerrotipo del salotto dove lo si vedeva vestito da esploratore e appoggiato a un fucile a due canne di vecchio modello, col piede destro sopra il collo di una tigre della Malesia, nello stesso atteggiamento trionfante che lei aveva osservato nella Vergine dell'altare maggiore nell'atto di schiacciare col piede il demonio vinto, tra nubi di gesso e angeli pallidi. A Clara bastava chiudere gli occhi per vedere suo zio in carne ed ossa, incartapecorito dalle inclemenze di tutti i climi del pianeta, magro, con un paio di baffi da filibustiere tra i quali spuntava il suo strano sorriso dai denti di pesce cane. Sembrava impossibile che stesse dentro quel cassone nero in mezzo al cortile.